Pubblicato sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una poesia di Luca Giambonino. Nessuno sa. Nessuno sa chi io veramente sia. Nessuno mi conosce, anche perché non ho amici tanti e pochi sanno persino che poeta sono. Ma la colpa è solamente mia. Solitaria è la mia vita, solitario è il mio cammino su questa terra. È la vita che mi scelsi tanti anni or sono, è ormai difficile cambiare, tornare indietro, aprirsi al mondo con un sorriso ed essere ricambiato. Nessuno sa della mia bontà, dell'animo mio nobile, della fierezza e compostezza mia. E forse non lo saprà mai nessuno. Solo a te, ramingo lettore, racconto questo e dai miei versi un poco forse mi conoscerai.